24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Lui si alza e ha fatto benissimo a voltare le spalle all'inno della gioia, perché partiamo già dall'inno della gioia, che non è gioia più per nessuno. E l'inno della gioia l'ha usato Hitler per i compleanni, Mao l'ha usato, Smith in Rhodesia per l'apartheid, l'hanno usato i più grandi killer della storia, l'inno della gioia. Adesso mannaggia, come facciamo? Come facciamo noi a Radio 24, Peter Bescapè? Noi non iniziamo i programmi tutti i giorni alle 6 con l'inno d'Italia e poi l'inno alla gioia. E come facciamo? Siamo come Hitler? E non lo so, siamo come Mao? E non, siamo come Smith, che è quello della Rhodesia, un po' meno famoso, ma... È un problema che dobbiamo affrontare questo adesso alle 6:32 minuti. Noi iniziamo tutti i giorni i programmi alle 6, le dirette, con l'inno di Mameli, e va bene, questo passi è per Grillo, ma poi c'è l'inno alla gioia e mo l'inno dell'Europa, ma adesso non lo so. Voglio subito convocare Paola Saluzzi per capire se ci aiuta a risolvere questo dilemma. Cosa dobbiamo, guarda, fare adesso? Meno male che Beethoven era sordo e non avrebbe mai potuto sentire queste... No, innanzitutto è l'inno alla gioia, alla gioia. Ma per favore, l'inno della gioia, sì, ma sì. Tu, Grillo, andiamo, sei un uomo intelligente, dai. Sì, però come facciamo noi da domani? Iniziamo andate sempre. Lisci. Buongiorno. Tranquillo, ce l'ha detto Paola. Meno male che quello era sordo. Ce l'ha detto Paola Saluzzi, allora possiamo rimetterlo, forza. È una musica talmente nobile, bella, insomma, possiamo... E poi non ci sia molta gioia in giro su questo. Su questo non c'è dubbio, su questo, però voglio dire, Beethoven non lo sapeva. Peraltro. Non lo sapeva. No. Non buongiorno, buongiorno. Benissimo. Voglio salutare anche Miriam Lucchetti, in redazione, mitica. Che dire, siamo qui alle 6:34 minuti. Allora, cosa è successo? Apriamo subito il Parlamento, così spieghiamo. Che ieri, insomma, il caffè volentieri a tutti. Se ne sono viste anche delle belle, all'Europarlamento, alla inaugurazione, con appunto quelli dello UKIP di Farage, che hanno voltato le spalle al momento dell'inno alla gioia. Caro Luca Dini, direttore di Vanity Fair, a te piacciono queste note di Beethoven? Sì, molto. Molto. Tutti troppo, per dire. Avrebbe dovuto essere anche cieco. Sì, anche cieco. Sì. Esatto. Luca Dini, ale. No, è un mito. Vabbè. Sordo e cieco. Era meglio. Si sono girati. Oh, attenzione, perché adesso se ne dite qualcuna contro i grillini, sono già pronto qui a twittare. Sempre per rallegrarvi la giornata. I grillini, per esempio, non hanno preso parte a questa ignobile. Sì, è vero, però... scena a cui Farage ha dato vita. È d'accordo, però poi Grillo in serata ha detto questa cosa qui. Insomma, basta con l'inno alla gioia. Capito, Luca? Lo usava Hitler, lo usava Mao, e poi in Rhodesia anche. I peggiori killer della storia hanno usato l'inno alla gioia. Non ho capito adesso perché questa roba contro l'inno alla gioia è inaspettata. No? Ma tanto bene. Luca, che dici tu? È una sciocchezza. Cosa vuol dire? Ma no, infatti non lo so com'è nata, come... non penso che sia per quello che sono girati, no? Non penso affatto che sia per quello. Quindi, diciamo la verità, hanno fatto questa cosa, cioè, per loro poteva essere anche Peppa Pig, si sarebbero girati perché, per quella cosa lì. Ah, no? Per l'Europa, per dare le spalle all'Europa. Ieri comunque era un grillo in gran spolvero, senti Paola Saluzzi, senti un po' anche che cosa ha detto sui finanziamenti, non date i finanziamenti europei all'Italia perché vanno a finire a chi, sentite. Io sono già venuto 2 o 3 volte qui in Parlamento, sono venuto per dire ragazzi non date più finanziamenti all'Italia perché date dei finanziamenti e scompaiono in 3 regioni, Calabria, Sicilia, quindi mafia, 'ndrangheta e Camorra, non date di più. Eccola, Calabria, Sicilia, mafia, 'ndrangheta e Camorra. E poi non contento, Renzi su Renzi. Voglio far rompui, dov'è far rompui? Cercami far rompui e Schulz, li voglio vedere immediatamente. Chi vuole vedere prima? Alle 6 Schulz e far rompui. Poi parliamo bene con Juncker perché ho da fare. Resterà qui anche per parlare con Renzi? La Merkel dopo. Vuole parlare anche con Renzi? Non so chi sia. Andiamo avanti. Vabbè, questo Paola è il grillo comico. No? Ce l'aspettavamo, dai. No, invece su quell'altro che gira le spalle all'Europa, sarebbe Farage, io dico. Veramente, dobbiamo parlarne purtroppo, perché di certa gente orrenda e razzista e schifosa bisogna parlare, ma ribadisco, ed è molto banale come battuta, ha mostrato la sua vera faccia, voltandosi di spalle, quindi persone di scarsissimo valore. E purtroppo le paghiamo pure, vabbè, pazienza. Sentiamo anche questa, così allora ti rallegri sempre su Beppe Grillo, poi chiudiamo la grilliade, il Grillo e i giornalisti, sentite un po', cari colleghi. E qui venite 4 giorni al mese, 3, con i deputati, una settimana. Lei cosa fa? Giornalista. Sarà mica un mestiere. Si è sentito poco, ma sarà mica un mestiere, Luca Dini, il giornalista. Cioè, cosa fa? Lei il giornalista sarà mica un mestiere. Dai, su, devi assolutamente ribattere. Sono pronto qui a twittare. Di qualcosa di feroce contro. Non so che dire. Il portavoce sarà mica un mestiere, voglio dire, cioè, ce ne sono tante di cose che non sono un mestiere. Cioè, ecco, attenzione, perché siamo pronti qua, sono Luca Dini, intanto vi faccio sentire una cosa, twitto questa, che Luca Dini contro il Movimento 5 Stelle, poi Paola Saluzzi lo chiede anche te, così lo twitto perché così vi fanno passare una giornata allegra, poi dopo su Twitter rispondono, ribattono eccetera. Ma cara Paola, mercoledì scorso ti ricordi che avevamo detto che c'era un'altra persona che sarebbe presentata all'Europarlamento e aveva promesso di fare una cosa? Non te lo ricordi, Certo che me lo ricordo, finalmente, così non l'avremmo visto in faccia, quello che si sarebbe presentato col burka. Esatto, buon anno, ma che tra l'altro, altro che burka, si è presentato con un velo nero, sembrava preso da sua nonna di Napoli, messo lì sulla faccia e poi sotto aveva la giacca e la cravatta, cioè quello sarà mica un burka peraltro. Comunque buon anno, si è presentato in burka. Come mai è così coperto dal burka? Perché l'Europa rifiuta le radici cristiane, invece io penso che sia giusto avere le radici cristiane, sono contro un certo tipo di Islam e quindi io vengo qua perché ritengo che il burka sia un sinonimo di come questa Europa sta andando con l'Islam. Io invece non voglio morire islamico. Eccolo lì, cara Paola Saluzzi, morirà islamico oppure no, l'onorevole? Ma se me ne frego di come vive, te pensa di quanto mi importi di come morirà? Tra 100 anni, per carità, sì, vita a lui e a tutto il suo gruppo, ma voglio dire, queste cose. Ma lo sapeva Bonanno che ieri hanno trovato 45 cadaveri, 45 corpi a Lampedusa, a Pozzallo, anzi, scusatemi. Sì. Cioè, c'era un po'. Nessuno si è alzato in piedi per quei morti, no? Ecco, forse allora questa gente che va di burka, di veli, di veletti, di non so che cos'altro, certo che loro dicono che Mare Nostrum è il grande fallimento e tutte le polemiche del caso, magari ieri un bel tacer non sarebbe stato mai scritto, magari un po' di silenzio. Guarda, no? Io concordo, c'è da dire che su questa vicenda, tra l'altro, dei morti, no? Luca Dini, tu la scorsa settimana, cos'era, la seconda puntata che avete raccontato, purtroppo, devo dire, purtroppo, con un'attualità che ci è stata sbattuta sotto gli occhi un paio di giorni fa, che raccontate questi viaggi della speranza che fanno, sì, partendo dall'Africa. Io vorrei capire una cosa. Che cosa pensano che si dovrebbe fare per fermare questa cosa? Esattamente, che cosa? Cioè, eh sì, perché per ora non si è capito. Chiuderli in partenza, come succedeva prima, chiuderli nei lager, cioè che cosa pensano di fare? No, certo, non c'è una soluzione, perché chi dice, ma io lo dico da entrambe le parti, mi sembra, perché Mare Nostrum va bene, bisogna soccorrere le persone in mare, sì, ma come, voglio dire, anche con Mare Nostrum succedono queste tragedie. Si vedono, purtroppo è successo a Lampedusa ed è nata al Mare Nostrum e adesso è successo ancora. Perché? Perché dall'altra parte ci sono degli scafisti assassini disposti a tutto pur di fare partire queste persone. D'altra parte chi dice li aiutiamo a casa, sì, ma come concretamente? Cioè, non, sta di fatto che di fronte a questo dibattito la gente continua a morire. Paola Saluzzi, e nessuno. Si parla. Io non so. Bisogna fare, fatelo voi. Allora, si parla. Innanzitutto, a questo punto, evidentemente, bisogna lavorare sulla Libia. Bisogna lavorare subito, immediatamente. Se io fossi una persona esperta di politica, farei politica. Lavorare immediatamente significa capire, oltre alla voglia di libertà, egalità, fraternità, sì, che ha spinto molti ad andare ad accoppare, non l'hanno fatto loro chiaramente, insomma, a segnare la fine di Gheddafi, cosa della quale insomma il mondo respira un po' di più quando c'è certa gente di meno in circolazione. Però il dopo, cioè andiamo a liberare quei popoli, il dopo, chi l'ha gestito? Come l'hanno gestito? Muovetemi, quanto agli scafisti, io li farei partecipare alle operazioni che ieri sono state sotto il mio naso, perché avevamo una telecamera fissa, Sky TG24, sul molo di Pozzallo, vigili del fuoco, motoseghe, fai a pezzi il peschereccio, togli quella gente dalla sotto. Mi viene da dire, Paola, ma secondo te a queste persone che intercettate oggi sui giornali si legge, dicono sono morte in 300 a Lampedusa, è colpa loro, bisognava bastonarli di più perché non capisci, cioè cosa vuoi che gli interessi? Scuoti forse la coscienza di queste persone? No, assolutamente, no. Però non ti do da mangiare nei miei carceri, ti piglio e vedo di farti trovare un carcere in Libia, cioè cerco di riportarti nei tuoi luoghi, non so se vengano dalla Libia questi scafisti, ma intendo dire, e una pena diversa dal mangiare mattina, colazione, cena, te la do. Sì. Guardate, no, certo, una macchina se l'attacco al collo e ti butto a mare. Mi arriva un messaggio, caro Luca, anche a dire di un ascoltatore, dice è un problema senza soluzione, i disperati continueranno a imbarcarsi inevitabilmente a morire, ogni soluzione è parziale, non c'è rimedio. Io non è che sono disfattista, ma non è che l'ascoltatore o l'ascoltatrice fino ad ora abbia dimostrato di avere grande torto, cioè finora, Luca Dini, se ne è parlato per dibattiti, anche se ne è parlato in Europa, eccetera, ma una soluzione concreta non si vede. No, anche perché quando dicono, però quando c'era Gheddafi, quello che succedeva è che li ammazzavano in partenza, o li schiavizzavano, li rinchiudevano, ma non è una soluzione quella, cioè la disperazione che li porta a tentare, cioè a rischiare la morte, anzi quasi sicura per molti di loro, è la cosa che li fa partire, e non c'è niente. Ma quella appunto quella cosa lì, quella disperazione. Ma non vorrei vedere che cosa pensa lui di fare per convincerli a non andarsene. Cioè, appunto, visto che la disperazione non si può, come dire, arginare, cioè se uno è disperato, da che mondo è mondo, anche quando eravamo noi italiani, è destinato a cercare un posto migliore dove vivere. Questo, togliamocelo dalla testa, non è che uno sta a morire in un posto, c'è la possibilità di spostarsi e cerca di star bene. Ma non è che voi dobbiate avere la soluzione, perché Paola... Ma creiamo una Ellis Island, creiamo un luogo dove queste persone arrivando possano trovare chi sicuramente, perché poi il problema è successivo, non sono quei santi che li accolgono, oggi è il sindaco di Pozzallo e ieri sono altri e domani saranno altri ancora, è dove vanno poi queste persone, chi li accoglie, che cosa fanno, dove vengono, che opportunità vengono loro date di raggiungere veramente i luoghi dove vogliono andare. Ma dire quando c'era Gheddafi ne arrivavano di meno era occhio non vede, cuore non duole, cioè morite nella vostra terra, morite nel Mali, così se siete morti nel deserto non vi abbiamo visti. Non è morite, morite, andate in giro, eravamo pezzenti noi italiani, pezzenti. Il Sud America e l'America e il Belgio sono tappezzati di nomi italiani perché eravamo dei pezzenti e andavamo a cercare con fame e con la voglia di vivere qualcosa di diverso dallo schifo nel quale vivevamo, andavamo a cercare la vita altrove. Allora, o ce ne facciamo tutti carico, ma tutti vuol dire anche i signori che stanno a Bruxelles, per l'appunto, sì. Oppure continueranno a morire, ecco. Allora, tanto per dare notizie all'ascoltatore che ha detto così. Sì. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Il governo introduce l'obbligo per artigiani, commercianti e negozianti ad avere uno strumento per consentire al cliente il pagamento elettronico, bancomat o carta di credito, però non sono previste sanzioni. È come se lo Stato ti dicesse: tu sei obbligato, ma se non lo fai, vabbè, pazienza, lasciamo stare. Dico, ma siamo impazziti? Senti, io ancora non riesco a capire sto Berlusconi, che cazzo deve fare. Prima è andato con i cani, poi è andato con sti gay, ma io non lo so dove cazzo deve andare questo, ma perché non va in pensione, poveraccio? Ma questo pinguino di Renzi, ma davvero crede che tutto il popolo italiano siano dei fessi, dei coglioni e che l'unico furbo sia lui? Quando è arrivato io l'ho guardato con speranza, ma questo ci sta proponendo supercazzole dalla mattina alla sera. Questo ci mette la faccia, ci mette quello che dice e poi tutte le scadenze passano senza che abbia fatto niente. Adesso le sue scadenze diventano triennali. Mi sveglio al mattino per ascoltare la Lino. La carta costa assai, anch'io non la sprecherei. Arriva poi Porchielli. A Lino sai dov'è? A nascondere i suoi danè. Tu con due rini non entri neanche nei casini. Per fortuna c'è Meazza che fa scaldare la piazza. Il traffico lo sai, lo diverte assai. Un sincero saluto, mi raccomando, non cambiare mai. Vabbè, con queste rime baciate, Paola Saluzzi, che dire, il traffico, ogni 2x2 cade la linea, alle 6.45 c'è un mistero, cioè ci sono gli zombie che ci tagliano la linea del traffico alle 6.45. Ma recupero sempre la linea con voi, dai. Va bene. Che profumata la voce della dolce Paola, mi arriva un SMS. Ma questo anche stamattina che mi sento una vera virago. Oppure, aspetta, perché prima devo leggerli bene e capire se sono mandabili in onda. Sì, questo si può mandare in onda. Massimo, oltre mordere la Saluzzi, sai che va di moda, perché certo. Mi piacerebbe destarmi, senti Massimo come parla, destarmi vicino a lei e cantarle tutti gli inni che vuole. Oh. Ma questo è meraviglioso, Massimo. Massimo è così. Allora, vi vorrei chiedere un parere su questo. Vi ricordate la vicenda, ovviamente, delle cosiddette baby escort ai Parioli? È arrivata la sentenza, nella sentenza condanna anche a una madre, a una delle madri che, secondo l'accusa, evidentemente è stato provato, incitava addirittura la figlia a prostituirsi. È stata tolta anche la potestà. Non è più, ecco, questa è la, al di là delle pene, le pene poi insomma sono questioni di avvocati, però mi interessava questo aspetto sul quale chiedevi un parere, caro Luca Dini, che ne pensi? È stata tolta la potestà, cioè non è più sua madre di fatto. Mi sembra il minimo, come dire, io, cioè, non lo era già, vorrei dire. Che madre era quella? Sì. Madre biologica, ma non No, non vera madre, però voglio dire, il gesto è molto forte, perché toglie la potestà, perché tra l'altro lei disperata dice: io non sapevo che mia figlia si prostituisse, vabbè, questo c'è un tribunale, c'è stata una sentenza, è chiaro che ma tutti ma non è vero, ed è per quello che gli hanno tolta. Se non l'avessi saputo non gli avrebbero tolta. Però Paola, questa è una mossa, come dire, estrema, una mossa molto molto... Ma di fronte a un fatto estremo come quello di fronte al quale ci siamo trovati davanti, è la mossa giusta, e per una volta mi viene a dire giusta, chi sei tu, mi potrebbero obiettare, per dire giusta, non sei una madre se fai una cosa del genere. Luca Dini ha detto, il direttore ha detto una cosa molto saggia, c'è una differenza tra essere biologicamente madri o essere padre perché ti ritrovi i bambini dentro casa e saper essere una madre, e sicuramente questa signora ha dimostrato il contrario rispetto a quanto una figlia non avrebbe potuto così desiderare di avere vicino. Una madre non deve essere una campionessa a tutti i costi, però sicuramente non deve fare quello che abbiamo visto, sicuramente. No, non siamo in tempi di guerra dove un'analisi del genere sarebbe stata molto complessa da approcciare e molto complessa da capire, siamo in tempi di pace e questo, quello che vivevano queste due ragazzine è stato l'inferno e l'orrore, quindi... Sì, il Corriere della Sera fa sapere che si stanno lentamente riprendendo, che sono state promosse, se non sbaglio, anche a scuola, e questa, come dire, è anche una piccola buona notizia, segno che la ripresa a volte passa anche da queste cose. Ma io volevo chiudere il discorso di prima facendoti sentire facendovi sentire Borghezio, perché così di voler... Ah, guarda che l'ho twittato, caro Luca, sono Luca Dini, vediamo se risponde a Grillo a 24 mattina sul giornalismo. Il portavoce del Movimento 5 Stelle sarà mica un mestiere? Va bene così? Bene, sì. Era più o meno testuale. Ho aggiunto del Movimento 5 Stelle, perché portavoce, se no non si capiva. Sì. Okay. Sì. Fammi sapere come va la... Fammi sapere come va la giornata, se c'è qualcosa. Va bene, Borghezio che riprende Buon Anno. Sentite un po'. E per quanto ci riguarda, noi non siamo contro nessuna religione. Siamo contro il terrorismo islamico, che anche in questi giorni ha massacrato. Eccolo lì, vabbè. Ha cercato di mettere una pezza. Ci vuole l'acqua calda. Va bene. Allora, ho la copertina di Vanity Fair. Questa non me la sono persa neanch'io. È la nuova coppia che a Hollywood sta spopolando, che è Uma Thurman e Quentin Tarantino. Questa anch'io, non me la... Bellissimo. Me ne ero accorto anch'io, Luca Dini, di questa vicenda. Vedi che ogni tanto sono informato su queste cose, però no, devo dire, l'articolo che leggerò con molta attenzione, visto che abbiamo parlato anche di questo tema, avete fatto un viaggio in Angola, ecco, che Africa è l'Africa che poi riscopriamo drammaticamente sulle nostre coste o no? No, è il contrario, è un'Africa dove gli italiani, dove gli europei, in particolare i portoghesi, vanno a lavorare come clandestini e gli viene requisito il passaporto. Diciamo che è il contrario. Cioè addirittura vanno... qui allo specchio. Addirittura? Cioè l'Angola, questo... Ma come mai? Cioè si è creata questa situazione? È un luogo di boom economico, finanziario, edilizio, dove ci sono molti soldi, molti più che in Portogallo, e quindi succede questa cosa, questa emigrazione al contrario, se esiste poi un verso giusto, molti portoghesi che vanno lì, essendo tra l'altro ex colonia portoghese. Esatto. Va bene, qua Paola Saluzzi, ma fin quando continua? Fin quando vai avanti tu? Fino a luglio, mi hai detto? Fino a venerdì 25 luglio. Ah sì, me l'avevi detto, ma è vero che andiamo in vacanza insieme, effettivamente anch'io finisco. E dobbiamo anche aggiungere, il direttore Luca Dini non lo sa, che torna in vacanza insieme a noi, anche lui. Ah, sì, ma non diciamo. Con Miriam, con Peter, con Wondi, facciamo tutto un gruppo e lui lo portiamo con noi. E via. Ma non glielo diciamo subito. C'è spazio anche per tre ascoltatori, meglio tre ascoltatrici se possono, ci sono gli ultimi posti, potete... Ma anche ascoltatori, ma guarda ascoltatori. Questo, ma che modi sono? Potete affrettarvi, ma va bene. Ma Miriam, pensaci tu. Va bene, va bene. Intanto vi ringrazio. Grazie Paola Saluzzi e Luca Dini. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo più avanti di scuola. Sono finiti gli anni scolastici, ci sono state anche purtroppo le inevitabili bocciature. Che succede ogni anno quando c'è una bocciatura? Molto più spesso sempre più spesso si ricorre all'avvocato, al TAR, che arriva poi a magari cambiare gli esiti stabiliti dagli scrutini da parte dei professori. E questo, come scriveva l'altro giorno Giovanni Bilardelli sul Corriere della Sera, va un po' a rompere quel patto di fiducia tra insegnanti e famiglie, perché anche lì sono i giudici, in alcuni casi i magistrati, a stabilire se un ragazzo o una ragazza debba essere bocciata oppure promossa. Fino alla follia, come è capitato a Cosenza, dove alcuni genitori hanno picchiato una vicepreside, la vicepreside Rosanna Gallucci, che sarà nostra ospite per la bocciatura del figlio, sono andati e hanno alzato le mani nei confronti della vicepreside. Ma parleremo con diversi ospiti di questo tema: la scuola, bocciati a scuola, promossi dal TAR, il rapporto tra insegnanti e famiglie, insomma, temi molto interessanti. Questo dalle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i giornali. In questo mercoledì 2 luglio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con il rating 24. Sapete che ogni tanto c'è un monitoraggio di a che punto sono le norme approvate. E allora il titolo è questo: riforme in lista d'attesa, mancano 511 decreti. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera invece, immunità per i nuovi senatori, questo è il titolo principale politico, così anche Repubblica: nel nuovo Senato resta l'immunità, polemica nel PD. Per la Stampa, riforme, resta l'immunità per i senatori. Il Fatto Quotidiano mette insieme in foto Sarkozy, che è stato fermato, e Renzi. Liberté, égalité, immunité. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Giornale se la prende proprio con Sarkozy. Ridi ancora, Sarkozy. Sapete che rise dell'Italia. Renzi libera i ladri. Questo invece è il titolo strillato da Libero, con la scusa del sovraffollamento, scarcerazioni e abolizione della custodia cautelare per reati puniti con pene inferiore ai 3 anni. Per il Messaggero invece taglia la spesa al nuovo piano. L'Unità, Grillo a destra e senza gioia. Sapete che ha accusato l'inno alla gioia dell'Europa. Tariffe per l'inferno e invece l'apertura di Avvenire ancora una volta sulle traversate dei migranti. Voglio però partire da un fatto di cronaca che avevamo seguito e tutti i giornali hanno seguito, l'Italia ha seguito per un po' di tempo. È l'apertura a pagina 2-3 come articoli del Messaggero, perché è avvenuto a Roma, ma molti giornali dedicano pagine su questo. Sono arrivate le condanne per la vicenda delle cosiddette baby squillo ai Parioli a Roma. 6 anni anche alla madre di una delle due ragazze. Leggo dal Messaggero a pagina 2, caso baby squillo, 6 anni alla madre, risarcirà la figlia e 10 anni allo sfruttatore. Tutti condannati per gli 8 imputati nel processo sulle baby squillo dei Parioli, anche lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato sembra non pesare nel calcolo del giudice per l'udienza preliminare. 38 anni di reclusione in tutto, multe per oltre 150.000 euro. La pena più dura non è quella a 10 anni inflitta allo sfruttatore. sono i 6 anni per la mamma di Agnese, una delle due minorenni che ieri con la sentenza ha anche perso la potestà genitoriale. Il giudice non ha provvisto provvisionali, sarà il tribunale civile a misurare il danno. Dunque condannata a 6 anni, tolta la potestà genitoriale e condannata anche a risarcire la figlia. Tramite il suo avvocato, per la verità, come racconta Valentina Errante a pagina 3 del Messaggero, questa mamma disperata dice: io non sapevo che mia figlia si prostituisse, non hanno voluto credermi, ora mia figlia è persa per sempre, sono straziata, vedo Angela, questa invece è l'altra mamma, 2 volte al mese. L'altra mamma è quella che è stata definita la mamma buona, tristemente insomma, in questa anche definizioni che vengono appioppate dalla stampa. La mamma buona è quella che ha denunciato, la mamma cattiva è quella che è stata condannata fino a 6 anni di carcere. In questa storia senza padri, scrive il Messaggero, dove gli uomini sono sfruttatori o clienti, la scena è stata loro dal primo giorno e lo è ancora. La mamma di Angela è quella di Agnese, la mamma buona, tra virgolette, che ha denunciato, e quella cattiva che ieri è stata condannata a 6 anni per aver indotto la figlia a prostituirsi e ha perso così per sentenza la potestà genitoriale, come aveva già disposto il giudice dei minori. Lei in questa storia di figli ne ha viste andare via 2 e così, dopo il verdetto che chiude solo un capitolo giudiziario, entrambe le madri parlano attraverso la voce dei loro avvocati. Entrambe si dicono disperate, straziate dal dolore. Tutti i giornali dedicano una pagina, quantomeno il Messaggero 2, a questa vicenda. Baby escort dei Parioli condannata, una madre deve risarcire la figlia. Anche il giornale titola così. Mentre sul Corriere della Sera il titolo che fa più effetto, la notizia che fa più effetto e diventa il titolo, è: tolta la potestà alla mamma di una ragazza dei Parioli. A proposito di cronaca giudiziaria, invece, vi voglio leggere l'intervista che il Secolo XIX fa in prima pagina a un magistrato. È il magistrato che anni fa diede il via la causa che arrivava a chiedere e a portare a una multa da 98 miliardi di euro, 98 miliardi di euro alle 10 società delle slot machine in Italia. L'accusa era truffa da parte di queste società ai danni dello Stato. Ora, siccome tra l'altro molti mi scrivono ogni tanto: ma che fine ha fatto quella vicenda? Quella vicenda è andata avanti, c'è stato un processo, alla fine il governo Letta ha proposto un maxi sconto, come dire, per uscire, per chiudere anche la partita giudiziaria. E tra l'altro il Secolo XIX fa sapere che 6 concessionari su 10 hanno deciso di chiudere la partita approfittando di questo maxi sconto offerto dal governo Letta. Altri 4 invece hanno rifiutato, preferiscono il giudizio di secondo grado che inizierà il 9 luglio. Dunque la vicenda giudiziaria è ancora in piedi. Ebbene, il PM antislot, ora diventato giudice, racconta al Secolo XIX: ho sfidato i signori del gioco, potevo finire a Pantelleria. Questa è una battuta che fa a Marco Menduni in questa intervista, ma inizia proprio così. Credo proprio che la mia vita sia stata salvata dal fatto che non esiste una sezione della Corte dei Conti a Pantelleria. Temo che sarei finito lì. È una battuta perché fa capire i poteri forti, così dice lui, che ha toccato. Marco Smiroldo si chiama, non è più PM della Procura della Corte dei Conti di Roma. Alla fine ha scelto di fare il salto e è diventato giudice sempre a Roma. Premette: sono un tipo tranquillo, non voglio incarichi, non ho mai avuto particolari aspettative di carriera. È il PM dei 98 miliardi, così lo definisce il Secolo XIX, ma di quell'inchiesta dice: voglio solo dimenticarla. Eppure fa questa intervista che poi prosegue a pagina 7. Guardi, la verità è che di quell'inchiesta preferisco dimenticarmi, l'ho messa in soffitta in qualche luogo remoto della mia mente. Certo, ora forse si recupereranno 400 milioni, ma in termini assoluti non è neppure una cifra disprezzabile. Ma lei aveva chiesto però 98 miliardi. Guardi, ripete, io ricordo sempre una frase di mia madre: il giardino dell'uomo sereno è pieno di fiori della dimenticanza. La mia vita mi ha fatto apprezzare quell'insegnamento ricevuto da bambino, è proprio vero, sacrosanto. Ma non ha mai avuto ripensamenti, dunque? No, questo no, faccio il magistrato, lo faccio volentieri, credo di far bene, aver fatto bene, almeno al massimo delle mie forze, quello che i cittadini mi chiedono. Non me ne sono andato, né l'ho mai pensato, ho solo voltato pagina. Certo, lei ha pestato molti piedi. Beh, ho toccato molti interessi, conferma questo PM, sicuramente anche più di quanti io stesso potessi prevedere, nei confronti di persone e situazioni che nemmeno conoscevo prima. Insomma, non sono mai stato animato da alcun pregiudizio, ho fatto tutto sempre seguendo la convinzione di fare un contratto con lo Stato, che è una cosa seria. Stabilire impegni conseguenti penali è una cosa seria. Se quegli impegni non vengono mantenuti, non si può dire a posteriori: scusate, avevamo scherzato. Oggi comunque mi sento sereno. Parla dunque il PM che aveva chiesto 98 miliardi di euro. Ho sfidato i signori delle slot, voglio dimenticare, così sul secolo XIX. Mentre, vabbè, prima della pubblicità voglio dare questa chicca che Franco Bechis sul Libero mette in prima pagina. Se poi dicono, la classica battuta già arriva spontanea e preventivamente lo dico, se magna, i politici, la politica magnano. In un mese poco più, fa sapere Libero, a Palazzo Chigi hanno speso 13.186 euro per catering e ordinativi alimentari presso supermercati. Titolo di Libero: banchetti da 1.000 euro, così Renzi mette su pancia. Non si può dire che a Palazzo Chigi manchi l'appetito. In poco più di un mese, dal 29 aprile al 10 giugno, l'ufficio del segretario generale della Presidenza del Consiglio ha ordinato catering e fatto spese alimentari per i piani alti del governo per 13.186 euro e 40 centesimi. È la grande fame di Matteo & Company, la definisce Libero. Il primo ordine è stato fatto il 29 aprile, 3.439 euro dal pizzicagnolo di fiducia Leonida Bucchi, supermercati Crai. E poi il 29 aprile, altra spesona, 3.475 euro di fornitura di generi alimentari presso la Beverage and Food di Ciampino, controllata dal gruppo Demetra di Roma, e così via. Insomma, è Libero, elenca tutte le spese per catering, sai, si fanno i consigli dei ministri, se magna lì. Poi la battuta la potete mettere voi, la politica magna, 13.000 euro in un mese, ma insomma, non mi sembrano queste le cifre che fanno sconvolgere i bilanci dello Stato, che adesso uno deve fare il consiglio dei ministri di 12 ore, magari, oppure una riunione di 12 ore, non può pure mangiare una pizzetta. Alessandro Milan, il mago di Oz dell'informazione. Il mago di Oz addirittura, va bene, alle 7:34 minuti. Ah, che noia la politica che tutti i giorni propone queste paginate di discussione, passetto avanti, passetto indietro, avanti, di lato, 1, 2, 3, sembra un balletto macabro di un villaggio vacanza sulla riforma del Senato. Comunque registriamo che c'è il passetto in avanti, tiene l'alleanza PD, Forza Italia e anche Lega almeno sull'immunità. Questo è il tema del giorno, resta al Senato l'immunità, questo almeno il voto in commissione, ma poi ci sarà il voto in aula e può cambiare tutto. In questo dico che noia, ogni giorno paginate, secondo me sul Financial Times dedicherebbero 3 righe a questi provvedimenti che vanno avanti e indietro ogni giorno, ma qui c'è il chiacchiericcio della politica. Allora, lo stesso Renzi in un retroscena di Repubblica dice ai suoi, secondo Francesco Bei e Giovanna Casadio, siamo solo al prepartita anche sull'immunità. Renzi è il primo a non essere convinto che la soluzione trovata equiparando semplicemente i nuovi senatori e deputati sia la migliore, e dunque stiamo pronti, tutto potrebbe cambiare in aula. Quindi quello che leggerete oggi sui giornali è che c'è l'immunità, ma forse l'immunità non ci sarà quando ci sarà la riforma del Senato, ma soprattutto quando ci sarà la riforma del Senato. Ecco, questa è la vera domanda da cui seguono tutte le sottodomande. In ogni caso il dibattito è aperto, sempre su Repubblica anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervistato da Simona Poli a pagina 13, io governatore dico no. L'immunità non la voglio, mi spiace, su questo non sono d'accordo, sono contrario perché diamo l'idea di essere davvero una casta chiusa. Questa storia non mi convince, non mi piace, è un errore. Potrei capire la tutela delle opinioni, in quel caso è giusto mantenere l'immunità, ma non certo per le intercettazioni. Insomma, il PD sta sbagliando rotta? Secondo me sì. L'immunità va cancellata, è un errore che rischia di mettere in cattiva luce un personale politico che già gode di scarsa fiducia. C'è da dire che abbiamo sentito Anna Finocchiaro dire: beh, ma rimane al Senato come alla Camera, quindi non cambia molto. Sì, però cambia il Senato. Se cambia il Senato e ci saranno i consiglieri regionali e i sindaci, ecco che sono persone che inspiegabilmente, o meglio, vista che è mantenuta l'immunità, acquisiranno un'immunità una volta che saranno eletti al Senato. E questa è la polemica. Anche per il Corriere la battaglia si sposterà in aula, ma la maggioranza si sente più forte. Alessandro Trocino a pagina 3 c'è questa battuta di Calderoli che dice: il nostro emendamento sembrava non avesse una mamma e invece avete visto, sono spuntati fuori un sacco di genitori. Insomma, effettivamente l'hanno votato Forza Italia, Partito Democratico e Lega in commissione. E che dire poi invece di quello che è successo in Europa? Era previsto che alla prima seduta, all'insediamento a Strasburgo dell'Europarlamento, ci fossero anche delle piazzate, delle scenate. La scenata che ha conquistato più titoli di giornale è quella dei deputati dello UKIP di Farage, che alle note dell'inno alla gioia di Beethoven, cioè l'inno che è anche l'inno dell'Unione Europea, hanno voltato le spalle. Imbarazzo nel 5 Stelle, ma alla fine, come scrive il Corriere della Sera pagina 4, Grillo in serata non ci sta e attacca anche lui l'inno alla gioia. Basta questo inno alla gioia, lui per la verità lo chiama l'inno della gioia. L'ha usato Hitler per i compleanni, l'hanno usato Mao Zedong, Smith in Rhodesia, la Rhodesia quella del razzismo. Basta. E Renzi, gli chiedono: Renzi chi? Io parlo con la Merkel, ma qui l'abbiamo fatto sentire l'audio alle 6.30, era chiaramente molto il grillo comico, no? Che diceva: fatemi parlare subito con Van Rompuy, poi voglio Juncker e poi la Merkel, uno alle 5, uno alle 6, uno alle 7, che non ho tempo da perdere. E Renzi, Renzi chi è? Ma lì chiaramente era il grillo che era uscito dalla politica e aveva in qualche modo indossato i panni del battutista. C'è da dire che oggi alle 15 parlerà invece Renzi, inizia il semestre di presidenza italiano all'Unione Europea e Renzi parlerà in italiano, fa sapere il Corriere della Sera, perché si parla tutti nella lingua madre, e forse qualche battuta in francese, ma parlerà italiano. Ovviamente c'è attesa per capire che cosa dirà in questo inizio di semestre europeo. Tra l'altro è molto caustico come sempre Iena sulla Stampa, inizia il semestre, allora Iena sulla Stampa pagina 5: oggi a Strasburgo Renzi apre il semestre renziano. Questo è il modo per tradurre una situazione che vede un Renzi sempre più al centro, no? Al centro del governo. Già, ma il governo che cosa fa? Oggi ci sono tre articoli interessanti. Il primo è l'apertura del Sole 24 Ore, che fa il rating 24, cioè mette a punto, fa il monitoraggio delle riforme. All'appello mancano 511 decreti, si legge a pagina 2. Continua a crescere lo stock dei decreti necessari per rendere pienamente operative le riforme in 2 mesi. Erano 500, si è passato a 511 provvedimenti ancora da mettere a punto. È la conseguenza dell'ingresso delle prime riforme varate dal governo Renzi. Gli altri ovviamente sono il pregresso, il governo Monti e poi il governo Letta. Sono arrivate al traguardo tre decreti legge che prevedono ben 84 regolamenti per poter dispiegare pienamente gli effetti, provvedimenti che si sommano a quelli lasciati in eredità dagli esecutivi precedenti. Si tratta complessivamente di 428 decreti attuativi ancora in attesa, di cui 177 già scaduti. Insomma, diciamo che manca siano 511 decreti, questi i numeri che trovate sul Sole 24 Ore, ma anche La Stampa e Il Fatto Quotidiano fanno due articoli simili. Sulla Stampa, per esempio, Paolo Baroni a pagina 7 fa questo articolo: statali e lavoro in ritardo le riforme volute dall'Europa. L'impegno di 100 giorni di lotta durissima per cambiare, annunciata il 12 marzo da Renzi, è quella svolta buona. Bene, come siamo messi? E La Stampa dice, diciamolo subito, non benissimo. Già il check sui primi 100 giorni di governo aveva messo in chiaro che l'esecutivo era in netto ritardo sulla tabella di marcia che Renzi stesso aveva detto. Ad aprile la riforma della pubblica amministrazione, al maggio fisco e lavoro, a giugno la giustizia, dalla riforma costituzionale al fisco, alle altre questioni economiche, tutto fatica a marciare. Così inizia l'articolo Paolo Baroni sulla Stampa, poi fa appunto l'elenco, anche il Jobs Act, dove è sparito. Tanto che il Fatto Quotidiano, vediamo al terzo articolo in qualche modo di critica all'azione di governo con Wanda Marra, pagina 4, scrive: Matteo Renzi balla da solo. Consigli dei ministri sempre più brevi, segreterie del PD riunite su WhatsApp e non più all'alba, nomine decise davanti a una pizza. Insomma, Renzi tratta il governo come un consiglio comunale. Se chiedete alle persone, rispondono: non lo so, decide Matteo, il presidente non l'abbiamo visto. Capita sempre più spesso di provare a informarsi su provvedimenti di Palazzo Chigi e ricevere queste risposte. L'idea di un Renzi che balla da solo. Caro Mauro Meazza, l'uomo che decide tutto al Sole 24 Ore, un po' il Renzi del Sole 24 Ore, buongiorno e buongiorno, buongiorno, grazie, userò questo argomento se poi mi lasciate la registrazione con l'ufficio del personale. È a tua disposizione, per un congruo incremento della mia retribuzione. Volevo dirti, bisognerà andare un po' ai supplementari con queste cose d'attuazione, no? Visto che sì, in questi giorni si va molto ai supplementari. Facevo due conticini sulle pagine Sole 24 Ore, stiamo dunque 84 a 1, se non ho sbagliato i conti, con le nuove misure, cioè 84 non attuati, 1 attuato. E sui termini scaduti non stiamo messi benissimo, perché se guardiamo solo a quelli per cui sono già scaduti i termini, anche qui potrei contare male, ma diciamo siamo 14 a 1, quindi 14 a 1 non mi sembra che si riesca a raddrizzare il risultato così rapidamente, speriamo nell'arbitro. Senti, ti voglio parlare un po' di questioni penali oggi, questa mattina, perché apprendo dalla lettura del Sole 24 Ore, come potranno apprendere appunto tutti i nostri lettori, che anche in Italia ci saranno i famosi Miranda Warning. Cioè, sai quella cosa che vedi sempre nei telefilm? Lei ha diritto a restare in silenzio, ha diritto a un avvocato, se non ne ha uno ne sarà procurato uno d'ufficio. Bene, devi sapere che l'Europa ha deciso di adottare anche lei il Miranda Warning. Sì. Quindi c'è vero un che lo sapevi del... tutto a memoria, ma sei stato arrestato in America, no? Sono stato, no. però ho visto molti telefilm, caviamocela in questo modo. No, è importante, poi devo dire, nelle stesse pagine di Norme e Tributi, dove trovate questa cosa di Miranda Warning, ci sono altre cose interessanti, sempre in materia di penale. Ohimè, ce n'è l'ennesima condanna da Strasburgo per trattamento disumano nelle carceri. Questo mi dispiace doverlo segnalare, per la situazione qui, come sappiamo, non migliora. Venendo a cose più amene, c'è stato finalmente il decreto legislativo per l'IMU del no profit, del terzo settore, che poi, come sai, è molto vasto, si parla della sanità, dell'assistenza, delle scuole private, insomma un po' di tutto. Ci sono due articoli che spiegano un po' in dettaglio tutto il decreto. Non ti sarà sfuggito, caro Alessandro, 16 pagine sull'aumento della tassazione sugli investimenti. Eccomi. Oggi con il Sole 24 Ore. Ti sento contento perché hai deciso di non investire, no? No, perché... intanto comunque ero contento per l'informazione, sei contento di poter avere questa occasione di informazione, certo, ecco perché poi nelle pagine di finanza raccontiamo anche ad esempio delle famose IPO, cioè di queste di questi debutti in borsa. Oggi tra l'altro ce n'è uno importante, lo segnaliamo ai nostri lettori appunto nelle pagine di finanza. Ottimo. Intanto però che sappiano, ecco, potranno trovare anche 16 pagine per spiegare come cambia la tassazione e in molti casi, come abbiamo detto in queste mattine, aumenta. Che altro? 32.000 esodati salvaguardati anche loro, più o meno, con il nuovo provvedimento che sta arrivando al voto finale delle Camere. Ottimo. Questo è altro, quanto. Altro non ti vo dir, come diceva il poeta, e quindi per me una parola, una frase, un rigo appena, quella che abitualmente pronuncio a quest'ora del mattino. Traffico! Alino Milan, il Peppa Pig dell'informazione! Grandissimo Peppa Pig, un grande abbraccio carissimo piccolo ascoltatore. Intanto per chiudere la questione della politica, Berlusconi ieri è stato ammonito, rimaniamo in gergo calcistico perché tutti i giornali la mettono così, è stato convocato dal giudice Beatrice Crosti, quella che è il giudice di sorveglianza che gestisce anche i suoi comportamenti durante i servizi sociali, per chiedergli conto delle frasi offensive dette a Napoli in un quando ha parlato di magistratura incontrollabile. Lei ha manifestato spregio nei confronti della magistratura. Così Luigi Ferrarella racconta il dialogo ieri tra Berlusconi e Beatrice Crosti a pagina 6 del Corriere della Sera. Berlusconi ha abbozzato qualche replica, ha detto anche che era una battuta, ha aggiunto che pensava che l'unico vincolo fosse non insultare singoli giudici e non la categoria in generale, ma alla fine chiede scusa e dice non si ripeterà più, il rischio è quello di perdere i servizi sociali e finire ai domiciliari. Berlusconi ammonito, basta offese alle toghe o perde i servizi sociali. Beh, più in disgrazia in questo momento è caduto Nicolas Sarkozy, primo presidente, ex presidente per la verità, della Francia, ad essere fermato per una storia di intercettazioni con l'accusa di avere cercato di fare pressioni e corrompere anche un giudice. Fermato l'ex presidente rischia 10 anni di carcere, interdizione dai pubblici uffici, un vero colpo a Sarkozy. Ovviamente questo era il titolo principale e sta terremotando tutti i giornali in Francia, ma anche molti giornali italiani dedicano pagine e pagine a quella che è una vera e propria spy story, come racconta Stefano Montefiori sul Corriere della Sera a pagina 9. Le 7 telefonate che lo incastrano sono telefonate nelle quale per esempio il giudice, l'avvocato di Sarkozy, anche lui fermato, definisce bastardi i giudici che indagano su di lui, i giudici di Bordeaux. È una spy story perché? Perché a un certo punto l'ex avvocato Herzog, l'ex avvocato di Sarkozy, si accorse che le chiamate col telefonino personale di Sarkozy erano ascoltate dai magistrati. Allora che cosa pensa? Cosa fa? Prende un altro telefonino sotto una falsa identità e il primo nome che gli viene in mente è quello di un vecchio compagno di liceo mai più visto, mai più sentito. Si chiama Paul Bismuth, in questi giorni attualmente vive in Israele, tra l'altro ieri tutti vanno da lui a dire ma lei sapeva di questo telefonino, cioè Sarkozy chiamava con un telefonino intestato a questo Paul Bismuth che dice ora beh avrebbero potuto almeno chiedermi scusa dopo quello che hanno fatto, vabbè ma è una spy story nel senso che era il suo nome in codice, poi alla fine è stato intercettato anche così nonostante lo stratagemma. E il giornale ora se la prende in prima pagina, il titolo del giornale è questo, rideva, com'è che è il titolo del giornale? Ridi ancora Sarkozy, fermato l'ex presidente che ironizzava sull'Italia di Berlusconi e ci trascinò nella guerra in Libia. Prima rideva, adesso ha poco da ridere. Così sul giornale si racconta la storia di Sarkozy a pagina 11. Beh, qui non c'è proprio da ridere. Certamente nel leggere gli incredibili resoconti intanto di quella che è l'ennesima strage di migranti, ieri sono stati tirati fuori i cadaveri di queste persone che sono giunte a Pozzallo e sono state messe chiuse nella stiva dai compagni di viaggio, sono morti molti asfissiati, ci sono anche dei minori, ma c'è soprattutto da arrabbiarsi in maniera totale nel leggere le intercettazioni che hanno sgominato una serie di scafisti, quelli che organizzano queste tratte, Guardate i titoli dei giornali, parlano per esempio della tragedia di Lampedusa, quella in cui sono morte 366 persone. Hanno definito, definiscono in queste telefonate cibo per pesci questi migranti che sono morti. Dicono di loro: se li picchiamo è per il loro bene. Dicono di loro: quello che è successo l'ha voluto Allah, è il destino, è il fato. Dicono di tutta questa vicenda: l'America è dove si fanno i soldi e io l'America l'ho trovata qui. Il manuale per lo scafista, picchiali per il loro bene, pagina 5 del secolo XIX. Leggere in questa intercettazione è un vero viaggio nello schifo di queste tragedie. Arrestati gli scafisti dell'orrore, sono morti, l'ha voluto Allah. Questo è il titolo del giornale. Sgominata l'agenzia viaggi criminale composta da eritrei, etiopi e sudanesi. Questo su Avvenire. Vincenzo Spagnolo mette questa frase: l'America è dove si fanno i soldi, l'America è qui per noi. I migranti, cibo per pesci. Questo è il titolo che racconta di queste intercettazioni sul Fatto Quotidiano, l'articolo di Giuseppe Lobianco. Davvero, davvero incredibile. Incredibile questa vicenda. Allora, noi ci occuperemo di scuola, di persone, ragazze e ragazzi che vengono bocciati e poi riammessi dal TAR, perché si fa ricorso, incredibile. Questo fa perdere autorità alla scuola, che già di autorità ne ha sempre meno. Si va a rompere il rapporto di fiducia famiglie professori, e di questo parleremo alle 8:15. Ma prima vi dico che la carta costa. Oggi l'articolo più inutile scovato dai giornali va a Libero, e attenzione, c'è un annuncio da fare. Oggi pomeriggio andremo nella sede del giornale alle ore 15 per consegnare la coppa, la carta costa, perché ha vinto il giornale la classifica generale, ma oggi Libero vince la classifica di tappa, diciamo, con l'articolo, un'intera pagina di Marianna Baroli, soldi da sposare. La rivista inglese Tatler fa la classifica dei 10 single delle più grandi fortune, eredi da sposare. Care donne, il primo è Arkady Abramovich, figlio di Roman Abramovich, non so quanti milioni di sterline abbia. E la prima donna da sposare, cari maschietti, sono due, Katrin e Cecil Fredriksen, figlie di un magnate svedese che ha milioni di euro. Andate a scoprirle, andate a scovarli, sposateli, donne e uomini, così non c'è più bisogno di andare a cercare lavoro. Sposate un bel biliardario ed è fatta. L'aveva già detto qualcuno questo. 24 mattino. Alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Cari ascoltatori, oggi parliamo di scuola, visto che si sono chiusi gli anni, si è chiuso l'anno scolastico, è finito per la maggior parte degli studenti, alcuni sono alle prese con la maturità, immagino ancora, ma comunque per la maggior parte degli studenti è finito benissimo. Per alcuni, purtroppo, succede, è finito male, con una bocciatura. Ma se succede, quando succede, non preoccupatevi, cari genitori, c'è pur sempre un modo in Italia per rimediare. Io aggiungo purtroppo, ma ne parliamo, ne discutiamo con voi, un modo sempre più utilizzato, un bel ricorso. Tramite un avvocato si ricorre al TAR. Si chiedeva due giorni fa in prima pagina sul Corriere della Sera Giovanni Belardelli, nel suo commento editoriale: sono ancora i professori ad avere la responsabilità pedagogica dell'insegnamento nelle nostre scuole? Si chiedeva questa domanda dopo il caso di una recente sentenza del TAR del Lazio che ha annullato la bocciatura di uno studente che aveva preso 3 in matematica, 4 in fisica, 3 in storia dell'arte al liceo classico, e il TAR del Lazio ha detto: ma in fondo queste non sono materie così fondamentali per uno che fa il liceo classico, e dunque annullata la bocciatura. Succede sempre più spesso. La domanda che vogliamo porre è proprio questa: sono ancora i professori? Non è questo un segnale dell'ennesima rottura di fiducia, di quel rapporto di fiducia che c'è tra famiglie e professori nell'ambito della scuola. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta ne parliamo con Mario Rusconi, che è spesso nostro ospite, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, anche lui preside. Buongiorno Rusconi, bentrovato. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Saluto invece l'avvocato Maria Laura Sommese. Avvocato, buongiorno e benvenuta, grazie. Buongiorno a tutti voi, anche a Radio Ascoltatori. Lei è avvocato di una famiglia, non quella citata da Belardelli, ma la famiglia di un ragazzo di Fabriano, nelle Marche, sì, che è stato bocciato per due insufficienze lo scorso anno, ma grazie al ricorso che lei ha portato davanti al TAR delle Marche è stato dapprima riammesso per mettergli in attesa della decisione di compiere l'anno scolastico successivo, e poi è stata annullata quella bocciatura, quindi lei ha avuto ragione, diciamo, al TAR. Intanto mi faccia capire questo. Ieri quando l'abbiamo contattata, so che lei ha detto, prima di parlare del caso, da quando mi è successo sono inondato, comunque ci sono tanti genitori che mi chiamano per fare la stessa procedura per ragazzi e ragazze bocciate, è così? È così, ovviamente è così. Questo non significa che tutti coloro che vogliono ricorrere abbiano ragione, ma non significa neanche che tutti quelli che vogliono ricorrere non abbiano ragione. Eh beh, certo, caso per caso si decide. Esatto, no? Ovviamente. Cioè lei non incentiverebbe, diciamo, questa moda o comunque questa prassi di ricorrere all'avvocato di fronte a una bocciatura in maniera automatica? Io incentivo il fatto di ricorrere a un avvocato ogni qualvolta qualcuno si ritenga, come dire, sottoposto a un'ingiustizia. Questo sì. Poi la valutazione, ovviamente, a mio avviso, la deve fare in primis l'avvocato. Questo chiaramente. Nel caso del suo assistito, so che aveva ricevuto due insufficienze, era stato rimandato e poi bocciato. Il motivo essenziale, mi pare di capire, per cui il TAR ha accolto il ricorso è che queste insufficienze non erano state comunicate alla famiglia, che poteva così rimediare essendo minorenne il ragazzo. Questo è stato il senso per cui è stata annullata la bocciatura? Allora, diciamo anche che ogni sentenza, immagino la stessa sentenza del TAR del Lazio che lei prima richiamava, avrà molte motivazioni, e poi, diciamo, facendo la sintesi si rischia, come dire, di non essere completi o forse anche di travisare a volte. Nel caso di cui mi sono occupata io, è vero che in una parte la sentenza sicuramente importante, questa è una delle motivazioni, vale a dire proprio questa mancanza di comunicazione tra scuola e famiglia, che poi è un elemento fondante, insomma, in ogni regolamento di istituto c'è una larga parte che si occupa proprio di come deve intervenire questa comunicazione, dell'importanza della comunicazione, sì, dell'importanza proprio anche dell'intervento della famiglia qualora il ragazzo ha delle difficoltà. No, ma è chiaro, insomma, la normativa prevede che i genitori vengano informati quando un ragazzo, soprattutto se è minorenne, ha dei brutti voti. È importante che vengano informati in tempo. In tempo, per poter rimediare, per poterlo incentivare a studiare. Per poterlo aiutare, perché a volte non tutti i ragazzi sono uguali e c'è magari chi ha bisogno di avere un supporto che dovrebbe fornire la scuola, che in alcuni casi, non voglio dire in molti, in alcuni casi non fornisce, magari proprio per la mancanza di fondi. Uno dei motivi che sempre la scuola diciamo porta a giustificazione della mancanza dei corsi di recupero durante l'anno, che sarebbero veramente essenziali per evitare poi delle bocciature a fine anno, è proprio fatto di non avere i fondi per poterli organizzare. Io voglio ricordare il numero 800 24 00 24. Professor Rusconi, allora intanto una considerazione generale. Lei la risposta alla domanda di Berardelli, se siano ancora i professori ad avere la responsabilità pedagogica dell'insegnamento nelle nostre scuole, alla luce anche di queste vicende, che risposta dà? Ma guardi, se prende piede, diciamo, questa moda di ricorrere ai tribunali amministrativi, io consiglierei al Ministro dell'Istruzione di spostare gli scrutini nelle sedi provinciali e regionali del TAR, in maniera tale che si possa, diciamo così, essere, come dire, vigilati. Chiaramente questa è una mia battuta molto sarcastica. Vorrei fare una piccola considerazione per quanto riguarda l'intervento precedente dell'avvocato. Faccio presente che ogni scuola, norma, mette a disposizione un'ora a settimana di ogni docente per tutto l'anno per il ricevimento dei genitori. La maggior parte delle volte i genitori non si sentono, quindi anche questo è un canale di informazione che dovrebbe essere, diciamo così, tenuto presente dai genitori, soprattutto da ragazzi che hanno difficoltà. Cioè, se uno si vuole informare, se uno si vuole informare, si vuole informare un'ora a settimana, matematica, latino, italiano, greco, eccetera. La seconda cosa, le pagelle o le schede di valutazione nella scuola elementare e media vengono date alla fine del primo trimestre, quadrimestre, pentamestre, quello che sia. Anche questo è una forma di informazione molto precisa. Il fatto che poi la scuola delle volte non ha fatto delle comunicazioni ad hoc non può esimere il genitore dal ricorrere a questi strumenti che dicevo. Torniamo alla sentenza del TAR. Io trovo che sia anzitutto abnorme, secondo voi sconcertante. È abnorme in quanto mi risulta essere una delle primissime volte in cui il TAR non entra nella legittimità formale. Il TAR ha diritto di annullare uno scrutinio se ad esempio durante lo scrutinio mancava un insegnante, perché devono essere tutti presenti, mancavano delle firme perché l'insegnante è andato via un quarto d'ora e ci sarebbero anche degli illeciti penali a mio parere. Ma entrare nello specifico, dire, come ho letto pure io l'articolo molto bello di Belardelli sul Corriere, matematica, fisica, insomma, non sono importantissime. Faccio presente che ha frequentato il liceo che ho frequentato anch'io come studente molto prima, per fortuna, Enrico Fermi, che ha fatto un liceo classico. Vabbè, però il diciamo professore, effettivamente poi le sentenze sono molto articolate, magari sicuramente nel dispositivo di sentenza ci sarà stata anche questa frase che anche a me ha fatto sobbalzare sulla sedia. Dice: ma come, 3 in greco, 4 in latino, 3 in matematica, 4 in, no, no, non in greco, 3 in matematica, 4 in fisica, al liceo classico non sono materie importanti. Però ma lei ha capito, Rusconi, quando è nata, da quanti anni è nata questa tendenza? Ce la ricorda, diciamo, la prima causa? Guardi, come minimo siamo a livello di 15-20 anni fa, soltanto che un 15-20 anni fa, diciamo così, i tribunali amministrativi, il Consiglio di Stato dava molto credito, a molto meno credito a, diciamo, ricorsi di questo tipo. Quello che però voglio dire che è sconcertante, che lo dice pure Belardelli, è che in effetti questo tipo di sentenze, al di là dello specifico tecnico, ulteriormente minano quella che è il prestigio degli insegnanti, che già è molto basso nel nostro paese rispetto ad altri paesi europei, ma in questo modo, e oltretutto, deresponsabilizzano il genitore. È molto più semplice per un genitore dire: è colpa dell'insegnante cattivo di matematica, piuttosto che dire: cosa ho fatto io in questi anni. Questo c'è sempre, da che mondo è mondo lo studente dice è colpa del professore. Il problema è quando si è rotto evidentemente il rapporto di fiducia tra le famiglie e il professore. Spesso si dice questa frase: un tempo i genitori credevano al professore, credevano alla professoressa e come dire, rincaravano la dose semmai di critiche nei confronti del proprio figlio o figlia, e invece adesso si è rotto questo rapporto. Non so, avvocato Sommese, lei è stupita del fatto che altre famiglie si rivolgano a lei, al di là del fatto che può essere una fonte di lavoro, laddove c'è una causa valida, non neghiamolo, ma è stupita di questa cosa oppure no? Allora, sono stupita dalla rilevanza mediatica che questo tema comporta rispetto a altri ricorsi magari che posso aver fatto in passato. Quindi da questo punto di vista sì, devo comunque fare una precisazione: non sono ricorsi questi, diciamo, verso i provvedimenti di bocciatura scolastica diciamo così facilmente accoglibili da parte del TAR. Quindi, torno a ripetere, io non conosco le motivazioni della sentenza del TAR Lazio, adesso magari mi farò, diciamo, cura si informi, di leggerla, perché... esatto. No, sa, perché ci sono avvocati che diventano addirittura esperti di questa materia, di diritto scolastico. No, è vero, ci non sono. Non ne dubito. Però ecco, non è così semplice. Il TAR è comunque un organo di giustizia che affronta, per quello che è perlomeno la mia esperienza, in modo molto attento le varie problematiche, anche perché bisogna considerare che la stessa richiesta di sospensione del provvedimento nell'ambito di un ricorso scolastico significa che il giudice nel tempo, nel giro di 10-15 giorni deve decidere se sostanzialmente bocciare subito il ragazzo o dargli la possibilità di frequentare l'anno. Sì, è chiaro, esatto. Come è stato in questo caso, visto che la bocciatura era l'anno scorso, al momento inizialmente hanno sospeso questo provvedimento perché almeno in attesa di capire se venisse accolto, gli hanno fatto fare l'anno e poi è stato accolto e quindi l'anno era valido. Se tra l'altro, scusi, se fosse stato respinto invece cosa faceva? Perdeva 2 anni di fatto. Perché aveva fatto un anno che non doveva fare e doveva rifare l'anno precedente. Probabilmente sì. È un rischio anche un azzardo non notevole, ecco, da correre. Ma infatti questi ricorsi, a mio avviso, vanno fatti innanzitutto credendoci realmente nelle ragioni e non tanto per farli. Ecco perché torno a ripetere ai genitori che sono rivolti a me. Io a tutti ho detto, prima ho necessità di vedere le carte cosiddette, no, per parte di noi avvocati, cioè prendere tutta quella documentazione scolastica che occorre per fare una prima valutazione, parlare, avere un colloquio con il genitore e poi capire se c'è materiale per un ricorso. Per poter fare ricorso. Allora, si fermi un attimo, c'è da dare la pubblicità, poi ci collegheremo anche con un'altra ospite che si aggiungerà insieme all'avvocato Maria Laura Sommese e al professor Mario Rusconi. Si tratta di una vicepreside di un liceo classico di Cosenza, perché lì purtroppo si è andati anche oltre. Una ragazza è stata bocciata a 15 anni, i genitori si sono presentati a scuola e hanno letteralmente picchiato questa vicepreside. Le vostre chiamate 800 24 00 24, credete ancora in questo rapporto di fiducia con i vostri professori, professori dei vostri figli e delle vostre figlie? Tra poco 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti parliamo di scuola e parliamo dello strumento sempre più utilizzato da molti italiani quando un figlio viene o una figlia vengono bocciati a scuola, quello di ricorrere tramite un avvocato al TAR contro questa bocciatura. Come immaginavo e come supponevo, quando parliamo di scuola le telefonate sono tantissime, così come i messaggi. E vorrei iniziare da Matilde da Torino che ci chiama. Buongiorno Matilde. Buongiorno a voi. Brevemente, mi sembra che questo problema sia semplicemente la punta di un iceberg che rivela che la scuola non funziona, perché sia le norme che la letteratura scientifica ci dicono che la valutazione è un processo partecipato tra docente, allievo e famiglia. Che la scuola non riesca a trasformare questa teoria in pratica è molto grave. Mi scusi Matilde, il fatto che le sentenze vengano accolte è una dimostrazione, secondo lei, che la scuola non funziona? Esatto, ma è un caso che rivela come la società civile si senta scollata completamente dalla scuola, non ci si riconosca in questo processo partecipato che appunto è la valutazione. È una critica molto, molto precisa che gira al professor Rusconi. Vuole rispondere a Matilde? Guardi, dovrei rispondere moltissime cose, trovo che sia veramente anche questa sconcertante come affermazione. Cosa vuol dire una valutazione partecipata? Io insegnavo latino e greco prima di fare preside, prima di mettere un voto 6, 5, 4, 9 devo sentire la famiglia, se è d'accordo, se il lauristo è stato ben interpretato. Non diciamo sciocchezze, per favore, ci sono delle professioni che hanno dei valori tecnici, il medico, lo psicologo, l'insegnante e molte altre, che non possono essere valutate in maniera partecipata. Perché facciamo semplicemente un grosso annu che ha caratterizzato in tutti questi decenni l'Italia, infatti si vede come siamo ridotti. Cioè, uno dei compiti dei professori è valutare in maniera autonoma, in base a quello che è il grado di preparazione di uno studente. Il problema che tutta più posso accettare dall'ascoltatrice è che in effetti la scuola non è pienamente, diciamo così, messa in condizione di poter operare nel migliore dei modi, ma dobbiamo chiederci il perché. Dal 1998 i contratti collettivi nazionali di lavoro della scuola, degli insegnanti, insegnanti che vengono firmati dai grandi sindacati e dal ministero tramite l'ARAN hanno tolto la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti che vengono valutati appunto meno di un meccanico, di uno psicologo, di un medico che hanno l'obbligo della formazione. Chiediamolo alle istituzioni perché hanno tolto l'obbligo della formazione, ma non diciamo cose improprie. Vabbè, ma questa è la posizione, anch'io sono dell'idea insomma che c'è sempre questo timore in Italia di una valutazione, cioè come c'è il timore, il terrore in Italia del merito, dire prende uno, prende 5, uno prende 6, uno prende 4, e vabbè, allora certo può sbagliare l'insegnante che dà una valutazione, non è Dio sceso in terra che sa tutto, però è lì per fare questo, è vero, puntiamo sulla riqualificazione e sulla formazione sempre più degli insegnanti, questo è giusto, in modo che possano fare una valutazione il più corretta possibile. Andiamo a sentire Gloria da Genova, buongiorno Gloria. Buongiorno, allora il mio intervento è un po' provocatorio. Io sono nata e cresciuta all'estero, sono arrivata a 13 anni e mezzo in Italia, venendo da scuole privilegiate, devo dire venivo da un sistema privilegiato di scuole internazionali, sono rimasta scioccata dalla pochezza del sistema italiano. Adesso dopo un considerevole numero di figli che sono andati a scuola rimango tuttora scioccata perché nulla è cambiato. In Italia gli insegnanti non hanno alcuna formazione pedagogica, avete usato più volte la parola pedagogia, il professor Rusconi, credo si chiami, si è indignato e ha citato ovviamente il vero motivo per cui la scuola esiste in Italia, cioè per dare lavoro agli insegnanti. Gli insegnanti in Italia non hanno formazione né pedagogica né didattica, e l'unico paese dove si utilizza il sistema delle interrogazioni che fanno solo perdere del gran tempo agli allievi, agli insegnanti, e sono assolutamente soggettive, dipendenti anche dal tempo e dall'umore di tutti i partecipanti e non aggiungono niente, mentre negli altri paesi l'insegnante mentre spiega valuta quanto i ragazzi hanno capito o non hanno capito, e ci sono dei test oggettivi fatti anche con quiz che possono essere, se qualcuno ha fatto il TOEFL, il GMAT lo sa bene, i quiz non sono necessariamente. Dove ha studiato lei, cioè con quale raffronto, con quale paese lei raffronta in maniera più impietosa l'Italia? Io sono andata in scuole internazionali di tipo britannico, in Argentina, in Messico, perché viaggiavo, mio padre viaggiava per lavoro, sì. Quindi sono andata, i miei figli sono andati in scuole di sistema internazionale, i miei figli hanno anche fatto l'Erasmus all'estero, cioè Renzi parla della generazione Erasmus, non hanno citato una volta il cambiamento fondamentale è che gli insegnanti, io adesso i miei figli, un mio figlio è stato bocciato l'anno scorso, ma lui mi dice fai ricorso, ma non se ne parla neanche di fare ricorso. Ah, lei appunto è stato bocciato e non l'ha fatto. Ma non esiste, voglio dire, sono lezioni di vita anche queste, però un sistema dove al liceo continuano a fare un anno di Promessi Sposi, 3 anni di Dante e non si tocca nella letteratura straniera, a meno che uno le faccia in inglese in modo peraltro penoso. Ma voglio dire, noi usciamo dal liceo che non sappiamo chi è Tolstoi, se per caso non abbiamo fatto Russo, che non esiste neanche. Voglio dire, è un sistema dove veramente farebbe una tabula rasa. No, rimanga con noi Gloria, perché Rusconi voglio che le risponda, però magari rimanga con noi Gloria. Una tabula rasa farebbe il sistema didattico, informativo e pedagogico di cui manca tutta la formazione, dice la nostra ascoltatrice. Guardi, le generalizzazioni come sempre possono portare alla vanificazione del concetto. Sì, è vero che ci sono diversi insegnanti che non sono in grado di, e così via. Io direi che moltissimi insegnanti però sono in gamba in Italia, non avremmo poi quei risultati spesso all'università o dei cosiddetti cervelli all'estero, non è che il cervello all'estero viene seminato, ci si mette un po' di concime e poi va all'estero, evidentemente è il risultato di una scuola, insomma. Quindi il fatto stesso che invece molti insegnanti... Ma oltre ai professori mette in dubbio i programmi proprio, Gloria dice è un disastro i programmi, non so, sapere tutto di Manzoni ma non di Tolstoi. Guardi, non è neppure così, perché non è tanto infatti il contenuto che importa quanto il metodo che viene dato a uno studente, però entriamo troppo in uno specifico tecnico. Io voglio dire un'altra cosa, che gli insegnanti in gamba devono essere messi in grado di essere premiati, le loro azioni devono essere, diciamo, di esempio agli altri. Gli insegnanti meno bravi, ce ne sono per fortuna una minoranza, devono essere, non dico espulsi dal sistema, ma messi in condizione di migliorare. E qua ritorniamo al discorso dell'aggiornamento, cioè come ricicliamo materiali e così via, mi scusi l'esempio molto forte, dobbiamo essere in grado anche di dire all'insegnante meno in gamba come si fanno le interrogazioni. Concordo con l'ascoltatrice, io sono stato al liceo Einstein di Berlino e ho visto come l'insegnante fa la lezione e nello stesso tempo interroga gli studenti, ma per fare questo, la lezione dinamica e così via, ci vuole la formazione. Esatto, se i sindacati e il ministero dal 98 hanno detto la formazione è una fin là, chiacchiera, togliamola, come avrebbe detto Totò, abbiamo questi risultati. Questo è il risultato. Gloria, non so, la soddisfa la risposta, ma i suoi figli però li manda, ha detto, in scuole internazionali? Sì, sì. Non mi soddisfa per questo motivo. Il professore, ma lo capisco, è il suo lavoro, continua a difendere le singole persone. Tutti noi abbiamo incontrato l'insegnante illuminato di cui ci siamo innamorati. È il problema sistema, in Italia è che non c'è il sistema, non c'è la metodologia. Ci sono dei programmi che prevedono il tutto, come tutte le leggi in Italia, meravigliosi, ma poi l'insegnante è lasciato totalmente libero anche nella sua incapacità. Non c'è un sistema ispettivo. In tutti gli altri paesi gli ispettori vengono e valutano l'insegnante come siamo valutati in tutti nel nostro lavoro. C'è un sistema di qualità. Allora non è il singolo insegnante che può essere bravissimo, è il sistema che non funziona, il sistema, cioè, che deve essere rifondare. Un sistema di formazione degli insegnanti. No, ma guardi Gloria, il suo intervento è molto molto prezioso. Dopo il traffico ci raggiunge, ma è già qui, intanto la voglio salutare perché succedono anche questi casi, casi limite, casi estremi, ma purtroppo non è il primo. Voglio salutare la vicepreside del liceo classico Telesio di Cosenza, Rosanna Gallucci. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, dopo, io la ringrazio per essere qui con noi perché so che adesso tra poco lo racconteremo, lei ha subito una vera e propria aggressione fisica molto violenta da parte dei genitori, dei due genitori di una ragazza che è stata bocciata quest'anno. Allora, insieme al professor Mario Rosconi, l'avvocato sommese, da cui torno tra un attimo, come detto abbiamo Rosanna Gallucci, lei insegna inglese peraltro, mi risulta, professoressa. Sì, sì, allora, è successo che questa ragazza è stata bocciata da tutti gli insegnanti, evidentemente non andava bene. Cosa è successo invece quando i genitori si sono presentati da lei? Sì, la ragazza è stata bocciata, ma tengo a precisare che è venuta da noi a febbraio di quest'anno, dopo essere stata in altre due scuole. E l'abbiamo messa in condizione di recuperare mettendola nello studio guidato, insomma dandole tutte le opportunità possibili. La ragazza è stata, non ha superato l'anno in quanto non ha assolutamente in nessuna materia, tranne in una, in matematica aveva un po' più di sufficienza, praticità, cioè. Sì, però per il resto in nulla assoluto, per cui è stata ovviamente bocciata al consiglio di classe, avvisata la famiglia più volte, a parte che noi abbiamo il registro elettronico online, quindi ogni genitore può vedere i voti in tempo reale, e poi questo genitore è venuto un giorno chiedendo, urlando il giorno della pubblicazione dei voti, urlando, recriminando sul perché della bocciatura della figlia, e che avrebbe voluto nulla osta, aveva già lì un'area minacciosa, però io poi ho detto che non c'era nessun problema. Il giorno dopo, alla riapertura della segreteria, sarebbe potuto venire e chiedere tutto quello di cui aveva bisogno. Invece il giorno dopo è venuto con la moglie, apparentemente molto molto calmi, non gliela faccio lunga, hanno dovuto aspettare un po' perché era impegnata, però poi li ho ricevuti. E la signora ha iniziato a parlare dicendo cose assurde, parlando di altri ragazzi, di favoritismi, cose del genere. Io ho fatto capire che non era assolutamente così. Quando la discussione si è accesa da parte loro, quindi hanno cominciato ad alzare la voce, mi sono alzata per accompagnarla all'uscita, dicendo così non si può parlare, ritengo sia inutile portare avanti la discussione. In quel momento il papà mi si è parato davanti, bloccando di fatto l'uscita, ma io questo l'ho capito dopo, e la mamma allo stesso tempo praticamente mi si è avventata contro da dietro, tirandomi colpi sulla testa, pugni, e poi mi ha scaraventata a terra tenendomi la testa dalla radice dei capelli, e lì è stata una cosa tremenda perché ha cercato ripetutamente di girarmi il collo. E io non capivo, perché più che terrorizzata ero stupita, ero sbigottita, anche perché la nostra scuola è una scuola, cioè il Telesio è una famiglia, è una scuola dove c'è un'armonia e un'educazione assoluti, per cui guardi, in qualsiasi scuola è chiaro, sì, che è assurda questa cosa sempre, però purtroppo ci sono realtà in cui magari c'è un comportamento anche poco confacente ad un'istituzione scolastica da parte di genitori. Le ripeto, da noi non è mai successa una cosa del genere, per cui questa signora cerca ripetutamente di girarmi il collo, e quando io cercavo veramente speratamente di seguire un po' il movimento, io l'ho schiacciata a terra sotto il suo peso per evitare che si spezzasse, poi la signora mi ha bloccato le gambe e lì ha dato quello che sarebbe dovuto essere, ritengo, il colpo finale. Io lì, dopo questo non ricordo nulla, ricordo soltanto che poi qualcuno ha cercato di alzarmi e calci sullo stomaco, lo stomaco e al seno. Per cui è stata una cosa di una violenza. No, ma lei in una delle prime dichiarazioni si è fatta questa domanda, che poi è la domanda di fondo che ci vogliamo porre tutti: che educazione diamo ai nostri figli? Ma nessuna, dire. guardi, io a parte che veramente sono dispiaciutissima per la ragazza, che so che continua a parlare di giustizia, tra l'altro. Cioè di giustizia riferito al a quello che hanno fatto nei suoi confronti? Hanno fatto, sì. E per cui veramente una dimensione mentale è lontanissima, grazie a Dio dai più, perché poi su questa cosa c'è stata una rivoluzione di solidarietà, non una manifestazione di solidarietà, forse ha fatto riflettere anche un po' i genitori, perché io sentivo quello che diceva l'avvocato prima, ma guardi, il problema di fondo è uno può anche vincere, no, legalmente qualcosa, però rimane la sostanza, cioè il fatto che il ragazzo non sa, quindi anche come genitore, qual è la soddisfazione? Ecco, questa è una bella domanda, la giriamo proprio, avvocato Sommese, cioè sì. Dal punto di vista professionale lei ha vinto e quindi dal punto di vista professionale ha visto le proprie ragioni confermate da un tribunale, e questo per un avvocato ovviamente è una soddisfazione professionale. Però si dice che tipo di insegnamento, voglio dire anche educativo, si dà da questo punto di vista? Allora, io ritengo innanzitutto che vada compreso che laddove il TAR dà ragione è come dire, molto probabile che abbia ragione, nel senso che la preparazione forse non era così sufficiente, la valutazione forse non era così corretta, eccetera, eccetera. Non possiamo partire dall'assunto unico ed esclusivo che tutte le valutazioni scolastiche siano tutte corrette, proprio per i motivi che poi abbiamo sentito sia da parte delle ascoltatrici, che a mio avviso sono molto significative, sia da parte dello stesso dottor Rusconi, adesso non ricordo, sì. Il quale diceva effettivamente gli insegnanti dal 98 non hanno più la preparazione che dovrebbero avere. Insomma, lei dice se un TAR arriva a dire questo, vuol dire che anche la scuola si deve interrogare un po' sulla propria qualità, sulla propria capacità. Avete tantissimo. Ovviamente ci mancherebbe il comportamento di queste. Sì, la sensazione, come al solito, mi riattacca a quello che diceva l'ascoltatrice Giorgia, credo, prima da Genova. Però se un sistema non funziona, cara professoressa Gallucci, cioè ognuno cerca di trovare una propria giustizia al proprio modo. Gli insegnanti giustamente rivendicano il loro dovere professionale di giudicare. Il genitore del ragazzo bocciato dice: beh, ma sapete che c'è, quell'insegnante per me non è in grado, e quindi prendo la scorciatoia o comunque vado in tribunale. Vado da un TAR, da un giudice che mi riconosce le ragioni, e così non se ne viene a capo di nulla, effettivamente. No, infatti, posso aggiungere una cosa? Sì. Il rischio enorme è questo: prima di tutto la scuola va vissuta, e va vissuta da docente, non da alunno, per capire i meccanismi. I docenti adesso sono talmente concentrati, purtroppo, perché appunto quello che è successo lo dimostra, più a registrare un voto, una cosa, che non a valutare l'alunno, se è così, no? Perché dice, vabbè, l'importante è che io ce lo registro a posto, però poi esiste un rapporto umano culturale che va molto oltre. Non può essere, io non posso invalidare un anno intero di relazione con il ragazzo, di prove continue col ragazzo, perché guardi, la cosa più facile per un insegnante sarebbe promuovere tutti, non ci vorrebbe assolutamente nulla. Ah, no, è chiaro, sì. Noi faremmo riunioni di 3 minuti, staremmo a scuola il meno possibile. Io personalmente sto a scuola dalle 8 di mattina alle 8 di sera, però non si fa il bene del ragazzo. Questo sì, mi faccia chiedere, le sì. Chiedo se lei dopo questo episodio in qualche modo ha mutato o muterà il rapporto tra se stessa e la scuola. Assolutamente no, certamente è una cosa scioccante. Al momento provo un grande disagio, anche paura, sono sincera, però io penso che proprio il mio lavoro di educatrice non può assolutamente consentire di cambiare il mio rapporto con i ragazzi e con la scuola, perché io ritengo che sia un dovere dell'insegnante educare e far crescere i ragazzi e responsabilizzarli. Quello che accade, io vedo assolutamente, non in tutte le famiglie ma in molte, questo voler comunque agevolare senza responsabilizzare, sì. Perché un ragazzo di 14 anni è normale che se sente il genitore che dice non ti preoccupare, ci penso io, o denunciando, o vabbè, in questo caso assurdo, picchiando, il ragazzo c'ha 14 anni, è normale che ne approfitti. Volevo soltanto dire, mi scusi, sì. Una cosa, l'altra signora straniera che mi pare però abbia frequentato fino a 13 anni, se non ho capito sì, male. Sì, ha frequentato all'estero e poi fino gli italiani. A 13 anni, per cui anche l'età. Io volevo aggiungere una cosa, io sono mamma di due ragazzi che si sono laureati a Londra e ho almeno 15 alunni nostri che sono all'estero a studiare all'università. Io le posso assicurare alla signora che gli studenti italiani, e lei prima ha parlato dei cervelli, sono i migliori nel testa straniere. Sa perché? Perché nella scuola italiana, per quanto bistrattata, non si fanno nozioni ma si fa cultura. Sì. Sbagliando, per carità, siamo esseri umani, possiamo sbagliare tantissimo, però la cultura è fondamentale, perché la specializzazione si fa all'università. No, ma è chiaro. Il dibattito, diciamo, come vedete, è sempre aperto quando si parla di scuola. Io so che c'è grande interesse da parte dei nostri ascoltatori. E torneremo su questa vicenda. Per il momento mi devo fermare ringraziando l'avvocato Maria Laura Sommese e il professor Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e la professoressa Rosanna Gallucci. Che dire, ci troviamo domani 6:30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.